Sì, ciao. Ciao. Sono Francesco, di Bussoleo. Ciao. Questa notte è andato a fuoco il presidio di Vaia, notavo, come penso avete saputo, avete già detto. È stato un attentato, quindi c'è sicuramente del dolo dietro questo. È stato appiccato il fuoco dalla parte posteriore del presidio e ad oggi rimane poco o nulla, diciamo, di quel presidio lì, se non le ceneri e quattro pezzi in piedi del presidio. Abbiamo sottolineato come sia da subito un attentato e non sicuramente un problema del presidio, quindi va diciamo definito come tale quello che è successo questa notte. E per fortuna, per puro caso, non c'era nessuno nel presidio, perché dovevano esserci dei ragazzi appunto di Pesaro che stavano venendo su e poi all'ultimo per un impegno hanno dovuto rinunciare, un impegno improvviso, quindi fortunatamente nessuno si è fatto male. Adesso c'è una conferenza stampa in corso che più o meno vuole cercare di ripercorrere quello che sono una serie di attentati che il movimento continua a subire da anni e insomma più o meno la questione è questa qua, un movimento che dà fastidio, che continua comunque a mettere in difficoltà degli interessi economici molto grandi, e questi interessi quando entrano in difficoltà provano un po' tutte le strade, tutte le carte per mettere in difficoltà il movimento. Sicuramente non è un presidio che brucia, che ci mette in difficoltà, è già successo tante volte e continueremo a lottare, continueremo sicuramente a ricostruire quel presidio con le iniziative di lotta che abbiamo in piedi. Sì, poi capita, diciamo, tra due iniziative importanti, quella del 19 ottobre a Roma, in cui insomma la Valle ha manifestato insieme ai movimenti sull'abitare, e poi la manifestazione che ci sarà il 16 su. Sì, sì, sì, sicuramente è un periodo direi ottimo per il movimento, per il movimento in generale, anche quello italiano, non so, il movimento notaro, quindi sicuramente gli interessi che non sono quelli delle persone che vivono quotidianamente in Italia, ma invece di chi vuole solamente impoverire e distruggere il nostro paese, sono in difficoltà, e queste sono le risposte così. Secondo me risposte deboli, assolutamente inutili, perché non è con un focarello che si può impedire alle persone di pensare, di vivere, di lottare. Quindi, certo, poi diciamo che una notazione pure comica, se si può fare, quella delle pronte parole di solidarietà di Esposito, il parlamentare, il senatore PD, che insomma è in prima linea contro il movimento No TAV. Sì, beh, più che da ridere non mi viene, perché di fatto comunque tutto rientra in un teatrino della politica ormai vecchio da anni, in cui si condanna, si dà solidarietà, insomma, cose lontane dal mondo, lontane da tutti. Ecco, diciamo che con la solidarietà e con le condanne il nostro paese non è che si modifica, ecco. Sì. C'è chi ancora rimane schiacciato su quelle dimensioni lì, se quella è la lotta politica di queste persone, insomma, è un bel disastro. Senti, insomma, quindi la conferenza stampa sta andando e ci sono giornalisti, insomma, sono arrivati. Sì, ci sembrava il minimo, giusto per chiarire un po' la situazione, nulla di più. In realtà quello che possiamo dire già da subito è che a Vaia domani sera ci sarà una fiaccolata, un momento per ripartire, stare assieme, quindi tutto, diciamo, in una normalità di movimento. Per noi non è assolutamente un problema se si brucia un presidio, andiamo avanti, ecco, va sottolineato di fronte a tutti, di fronte ancora magari a chi non conosce la lotta notava, a chi non è informato, sono, diciamo, passaggi importanti per far capire, quindi la conferenza stampa è di nuovo un momento per spiegare tutto quello che succede in Val di Susa, tutto quello che viene messo in campo per fermare il movimento, ma siamo talmente oltre queste dimensioni che diciamo che il nostro percorso non può che fermarsi, è un piccolo imprevisto di percorso che penso che tutti quanti mettono in conto quando si vanno a toccare interessi così grandi e quando si va, diciamo, a incidere così tanto sulla vita politica del nostro paese, che come dicevo prima è assolutamente disastrosa, e questo è niente in confronto a quello che magari devono patire quotidianamente le persone del nostro paese, come tutti quelli che lottano per una casa, lottano per dei diritti, lottano per vivere meglio. Ecco, noi non ci facciamo spaventare da un presidio bruciato e non vogliamo neanche assolutamente diciamo essere vittime, quando nella realtà c'è chi paga più di noi tutti i giorni con la propria vita, e assieme a loro vogliamo costruire qualcosa di diverso. Senti, vogliamo spendere anche due parole per Pasquale, il compagno del movimento No Tav che è morto nei giorni scorsi, ricordare un po' la sua figura. Sì, ci ha lasciato Pasquale, ecco, subito anche qua c'è stato un momento diciamo difficile, ecco, queste sono cose che ci toccano un po' di più, che sono veramente complicate da gestire. Immediatamente dopo abbiamo ricominciato, ecco. È durato tutto un secondo. Il ricordo suo è eccezionale. Penso che se una cosa possiamo dire di Pasquale, che incarnava sicuramente il movimento No Tav, cioè il movimento No Tav è così strano, bello, forte, è incredibile grazie a persone come lui. Penso che Pasquale abbia dato tutto quello che una persona oggi nel nostro paese può dare per cambiare le cose, ha dato tutto e anche qualcosa in più, perché se mi devo ricordare Pasquale, insomma, i momenti vissuti assieme, gli anni ormai vissuti assieme, mi ricordo questo, una persona che ha messo di lato tutto, tutte le cose che potevano essere gli interessi personali o comunque tutte le priorità che una persona si dà nella vita, dalla salute al tempo per se stesso, al riposo per gli altri, quindi non con un intento missionario, caritatevole o altro, ma con un intento assolutamente rivoluzionario, quello di comunque mettersi in gioco vivendo con gli altri, non aiutando gli altri ma vivendo insieme, quindi aiutando gli altri a camminare insieme. Pasquale era un collante, una persona di quelle che mettono d'accordo tutti, una persona che riesce a interpretare in ogni momento la difficoltà e dargli un senso collettivo. Questo penso che sia il messaggio che ha seminato per tutta la vita e che ha lasciato tutti quelli che continuano a camminare. Non un esempio, ma una pratica, quindi un qualcosa ancora che va oltre, un qualcosa di più, quindi un qualcosa che è riproducibile, un metodo, quello che comunque fa la differenza, perché diciamo tanto di cappello è il massimo rispetto a chi fa delle cose importanti, a chi traccia delle linee importanti o fa delle cose anche forti nella propria vita per gli altri. Lui ha saputo fare qualcosa di più, ha saputo lasciare una cosa che è riproducibile, quindi un modo di stare assieme che migliora la propria vita, che migliora quella degli altri e che modifica quello che c'è intorno, ecco, quindi dai sentimenti alle cose, perché Pasquale era questa cosa qua, riusciva a aggiustare una presa elettrica piuttosto che a mettere in piedi una cucina in 3-4 ore, e allo stesso tempo riusciva in un'assemblea magari difficile, complicata, a trovare un senso comune all'energia, ai problemi, alle difficoltà che magari si incontravano. Ecco, Pasquale faceva la differenza e ci ha insegnato a farlo, quella è forse la cosa in più, quindi ci mancherà, ma allo stesso tempo non mancherà mai a nessuno, perché ha lasciato una traccia che è riproducibile, come dicevo, un modo semplice per riuscire a fare quello che faceva lui. Quindi non è solo riuscito a mettere in discussione, in gioco se stesso e a dare un senso alla sua vita, ma è riuscito a dare un modo attuale, assolutamente attuale, senza andare a ricorrere ai grandi miti della storia che mettevano le persone insieme, le facevano lottare, ma ha lasciato un modo quotidiano e moderno di vivere in questa società qua e modificarla in modo radicale. D'accordo, allora ovviamente tutta la radio abbraccia il movimento della Valle in questo momento difficile, come tu l'hai descritto e ricordato, e ovviamente sempre tutta la nostra solidarietà concreta, non a parole, al movimento No Tav. Sì. Quindi ti ringrazio. Grazie. A risentirci. Grazie a voi. Ciao.